Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Olga. Bentornati su Radio Fujiko, questa è Van Loon ed è la vostra mezz'ora di storia. Questa settimana mi hanno lasciato da sola e vi racconto qualcosa davvero che mi interessa e mi appassiona. Sicuramente avrete sentito in queste settimane il caso Montanelli. Si parla in questo periodo del ruolo della storia, del suo uso al di fuori dei cosiddetti luoghi deputati, no? Come l'università o la scuola. Si parla di uso distorto o piegato ai voleri di una certa parte politica. Ricorderete la nostra puntata sulle foibe che potete andare a riascoltare su www.radiovallun.info. Ci si confonde spesso nel discorso pubblico tra storia e memoria, dove per memoria si intende la testimonianza singola e diretta di una persona, quindi qualcuno che racconta i fatti. La memoria però, essendo fatta da un gruppo umano, è sempre in evoluzione. La storia invece è un'altra cosa, è ricostruzione mai completa e sempre problematica di ciò che non c'è più. Il primo luogo però dove noi ci approcciamo alla storia, se ci pensiamo, è di sicuro la scuola, dove la studiamo, bene o male che sia. La storia si insegna a scuola, ma pare che in questo momento, e poi ci ritorneremo su questo argomento, gli orientamenti del Ministero dell'Istruzione sembrano proprio andare nella direzione di togliere importanza alla storia come materia. Ci troviamo di fronte a un bivio che oserei dire kafkiano, in cui da un lato c'è un surplus di storia collegata alla memoria, fuori dai luoghi deputati appunto, e dall'altro una cacciata, una sorta di defenestrazione della storia dal luogo deputato al sapere, cioè la scuola. Per questa puntata abbiamo incontrato due esperti in materia. Il primo, David Bidussa, intervistato dalla nostra Alessia, alias Priscilla, che fa un grande ritorno sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Bidussa è uno storico sociale ed è responsabile editoriale della Fondazione Feltrinelli. L'ultimo libro firmato da David Bidussa è Ferruccio Parri, come farla finita con il fascismo, scritto insieme a Carlo Greppi e appena uscito per La Terza. La seconda ospite che abbiamo è Agnese Portincasa, che è responsabile, anzi direttrice, della didattica dell'Istituto per la Storia e Memoria del Novecento Ferruccio Parri di Bologna. Insieme cerchiamo con loro, con questi due ospiti, di sbrogliare una matassa in cui sembra che la fine della storia sia imminente, fuori e dentro le aule. Prima però di lanciare le due interviste, rivolgiamo davvero un saluto ai compagni e le compagne di XM che in questi giorni hanno perso un loro compagno di vita. E che ha fatto davvero un pezzo di strada con loro. Noi possiamo solo accostarci al dolore e niente, la redazione di Van Loon dà un grande abbraccio a loro. Jarabi ma fe gañalo ñala terini terini abedi sa ne kanu I want to know. I want to know. salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Vallun. Siamo a Milano con David Bidussa. David ha scritto moltissimo ultimamente anche sulla questione problematica dell'eliminazione della traccia di storia dall'esame di Stato, però questa in realtà è uno dei molti provvedimenti del Ministero in merito all'insegnamento della storia. E tra queste c'è anche appunto la riduzione drastica delle ore di storia negli istituti tecnici. Quindi volevamo un attimo chiedere a David cosa ne pensa di questo, un commento su questo tema. La storia è sicuramente una disciplina difficile da trattare nell'ambito scolastico, perché è una disciplina che ti dovrebbe dare alcuni criteri e ti dovrebbe far riflettere sul rapporto presente-passato-presente. La mia sensazione è che le difficoltà e anche, come dire, una sorta di freddezza oggi della politica rispetto alla storia sono dovute al fatto che noi ci troviamo in una condizione in cui, almeno in Italia, c'è un enorme problema di sapere quale passato vuoi rivendicare. E soprattutto c'è un disagio a confrontarsi con il rapporto presente-passato-presente. La mia sensazione è che quando 20 anni fa è stato deciso di fare il riordinamento temporale dell'insegnamento della storia nei licei, per cui l'ultimo anno del liceo è diventato insegnare il Novecento, quella trasformazione è stata una trasformazione falsa, perché sarebbe stato preferibile ragionare per esempio su delle categorie, cioè tipo democrazia o libertà o totalitarismo, cioè di trasformare l'insegnamento della storia nella modalità con cui si fa ricerca storica. Ragazzi, qualsiasi persona a 18 anni ha già almeno avuto per due volte nel suo iter scolastico qualcuno che gli ha fatto un insegnamento cronologico della storia, ma nessuno che gli abbia mai fatto un insegnamento tematico della storia. Allora io penso che lì c'è una vera difficoltà a concepire oggi come si insegna la storia a una persona adolescente, a come si entra nel suo linguaggio e a capire che il suo linguaggio è anche un modo in cui una classe docente potrebbe anche apprendere qualcosa di come si fa l'insegnamento della storia. Allora è molto più facile fare una cosa diversa, cioè semplicemente abolirla. Cioè quando non si sa affrontare un problema, semplicemente si elimina il problema, si pensa che è così che il problema non esista più. Nella storia di solito, appunto, a saperla, di solito quando le cose si eliminano per non saperle affrontare vuol dire che in realtà si ripresenteranno più aggravate e più problematiche nel giro di un tempo breve. Tra altre cose, poi volevo chiederti, in realtà, al di là di questo, in realtà non è solamente un problema di didattica e dell'insegnamento della scuola, della storia dentro i luoghi scolastici o accademici, perché poi noi magari ora parliamo di insegnamento della storia a scuola, ma poi in realtà si apre un altro mondo quando parliamo di storia all'università, dentro le accademie, il problema della ricerca, dei finanziamenti, dei fondi. Però appunto ti chiedo, in realtà forse è una domanda un po' ingenua, quale secondo te potrebbe essere una soluzione per risolvere questo problema tra l'esistenza anche forte di una domanda di storia e di conoscenza del passato e invece poi i meccanismi degli insegnamenti nei luoghi istituzionali che in realtà non soddisfano questa domanda? Io penso che l'insegnamento della storia o la lettura della storia o la riflessione sulla storia, anche fuori da un programma scolastico, sia data da dover risolvere due tipi di problemi apparentemente molto diversi, forse anche opposti. Il primo dice, devo trovare uno strumento o un mezzo attraverso il quale non dico esplicitamente che sto ponendo un problema di studio della storia, ma quello che ho come effetto, che mi porta a casa, è in realtà uno studio di storia. Allora, io penso che se noi scegliamo dei testi di letteratura e scegliamo di discutere di testi di letteratura, ne scegliamo alcuni, ora poi vi dico anche i titoli che c'ho in testa, noi facciamo un'operazione in cui costruiamo una consapevolezza storica e storiografica, anche non sul Novecento. Cioè, per fare un esempio, se noi vogliamo discutere di resistenza, noi possiamo fare due ipotesi. La prima che è stata quella tradizionale, cioè io mi metto a studiare i documenti della Resistenza. Posso studiare di vario tipo, posso scegliere varie serie documentali, posso fare tutto, diciamo così, mi immergo nella fase documentale. Poi però si dà il caso che, almeno secondo me, a partire dalla rivoluzione storiografica che ha prodotto un libro come Una guerra civile di Claudio Pavone, i testi su cui di fatto tutti si sono messi a ragionare quando hanno dovuto ragionare di resistenza, non erano più, che ne so, la struttura costituzionale della Repubblica di Montefiorino o lo spaccio per l'insurrezione del 25 aprile, ma è diventato leggere Fenoglio, è diventato leggere Calvino, è diventato leggere comunque letteratura. E attraverso quel sistema letterario, quello con cui ci siamo confrontati non era per sapere come andava a finire, ma in realtà uno studio sui caratteri, sulle mentalità, sulle parole che sono rimaste, diciamo in un qualche modo sulla rappresentazione di un evento fatto attraverso un percorso che suscitava le emozioni. Allora, quello è stato un grande percorso, non era una diminuzione dell'istituto della storia, era invece un modo molto anche appassionante di trasformare lo studio di qualcosa nell'apprendere, per esempio, un linguaggio, nell'avere una sensibilità, nell'avere anche una curiosità. Poi non nego che, per esempio, gran parte di questi testi di letteratura noi siamo arrivati negli ultimi 20 anni a rileggerli, o forse a leggerli per la prima volta, non perché fossero clandestini o non si trovassero, perché in un qualche modo chi ha prodotto l'avvicinamento a quei testi è stato il cinema, è stata la riduzione di testi letterari in sceneggiati televisivi. Allora, c'è tutto un cosmo, diciamo così, di immaginario, visuale, letterario, testuale, lingua, che noi possiamo apprendere dallo studio della letteratura, e che avviene e che può venire benissimo fuori dell'orario scolastico della storia, può venire perfino fuori dalla scuola. Però allora occorre, come dire, che ci sia una sensibilità alla pubblica lettura, altro aspetto su cui la scuola italiana non è mai intervenuta e su cui gli insegnanti sono soli quando di solito vogliono fare qualcosa, da una parte. Dall'altra, se dovessi prendere come oggi si racconta storia, allora lì nasce un altro enorme problema, secondo me, in cui noi, almeno in Italia, non siamo ancora preparati a affrontare le tecniche narrative del racconto del fatto di storia, dove spesso i giochi di storia, che in gran parte non riguardano il Novecento, riguardano il Medioevo, riguardano l'Antichità, riguardano il fuori Europa, altra questione su cui di solito nell'insegnamento della storia sono tutti pezzi, diciamo così, minori o poco sviluppati o che rimangono indietro, cioè, perché poi esiste questo tema per cui sembra che lo studio della storia sia solamente lo studio del presente. Però in ogni caso anche quelle sono tutti strumenti che, se saputi usare, ma per saperli usare uno deve aver fatto uno studio di metodologia, deve essersi applicato alle forme narrative, cioè, quindi non è io so, ho studiato gli eventi, c'è una tavola cronologica, oppure ho studiato i grandi storici che hanno ricostruito scenari del passato. No, c'è tutto un armamentario culturale, lessicale, dell'immaginario che sarebbe essenziale lavorare, con cui lavorare, ma che a me sembra che ci sia pochissima voglia di fare, e forse anche non c'è nessuna domanda, perché l'offerta esiste paradossalmente nel sapere, l'offerta esiste non se c'è l'offerta, l'offerta esiste se c'è una domanda che chiede di essere evasa e che l'offerta non è capace di evadere. Paradossalmente nel sapere, il sapere per me, soprattutto nel campo della storia, è domande che non trovano risposte, non offerte di risposta che non trovano domande, perché di quello è pieno il mondo, ma continua a essere una quantità di roba come un affastellamento di merci al supermercato che rimangono non vendute. Ci sono invece, come dire, delle domande di merce, uso questo termine, che non risultano nemmeno considerate nel sistema del mercato, che invece avrebbero molto senso, Magari a volte sono delle domande molto provocatorie. Per esempio, oggi c'è una domanda sicuramente di sapere cos'è il fascismo, fatta attraverso non un preliminare di scandalo rispetto alla dittatura, ma fatta attraverso un fascino rispetto all'idea di ordine. Allora, sarebbe molto interessante ricostruire come la giornata tipo di un individuo normale sotto la dittatura. Mi piacerebbe che qualcuno fosse in grado di raccontarla, perché forse perderebbe anche del fascino, o forse uscirebbe dal mito. Ma se noi non l'affrontiamo, e non l'affrontiamo solamente perché raccontiamo una lezione di storia, perché per raccontare la giornata tipo sotto la dittatura, per esempio, si potrebbe inventarsi un percorso delle cose che non si possono fare o che non si possono dire, facendo un percorso proprio come si farebbe il gioco dell'oca, che quindi è un percorso muovendosi dove non si può andare, per dirne una. Per esempio, mi piacerebbe ricostruire la domenica tipo di una famiglia povera nel 1932 in Italia. Per esempio, cosa poteva concedersi andando nel centro di città, se poteva andare al cinema oppure no, se poteva scegliere tra il gelato e la caramella, se doveva scegliere se andare a piedi oppure no. Ecco, allora, prova a metterti nei panni, ma fisici, e dopo prova a ritornare nei tuoi panni. Ti piacerebbe, non ti piacerebbe, che cosa ti affascina, che cosa ti dà. Allora, quella è una dimensione molto teatrante della storia, magari apparentemente banale, ma che però ti origina domande, e la mia inquietudine è quelle domande che si originano da quella modalità, come dire, esperita, hanno nel mercato dell'offerta culturale oggi esistente in Italia una possibilità di essere soddisfatte oppure no? C'è una competenza per soddisfarle oppure no? Oppure invece bisogna costruire dei percorsi per poterle soddisfare? Di nuovo, è evidente che tu crei un, come dire, è come dire, io creo un percorso, ma lo creo non perché sento la necessità di doverlo creare, perché penso che gli strumenti che ho per darmi delle risposte su quel tipo di domande mi derivano dal fatto solo se io, come dire, creo il bisogno della risposta, che deriva dal fatto che io ho esperito delle domande, che è l'esatto opposto del telequiz, cioè io ho delle risposte e tu devi dirmi le domande. No, non funziona così. Nah. Siamo tornati sulle frequenze di Radio Città Fucico, questa è Vallun ed è la vostra mezz'ora di storia. Abbiamo il piacere di avere con noi Agnese Portincasa, l'abbiamo già presentata ma la ripresentiamo. È la direttrice dell'area didattica dell'Istituto Parri e questo pomeriggio è con noi per raccontarci un po' la connessione tra storia e memoria. Ciao Agnese, grazie. Ciao, ciao a tutti. Agnese, senti, io partirei subito con la prima domanda perché insomma le questioni sono tante ed il tempo purtroppo come sempre è poco. Abbiamo già detto noi nell'introduzione che sembra che l'orientamento del MIUR sembra essere quello di mettere la storia da parte in un certo senso. Io ti chiedo, come i docenti che sono già alle prese con le mille scadenze di routine della scuola possono ovviare a questo problema? Rispetto a questo argomento si fa un gran parlare dell'abolizione della traccia di storia nella prima prova scritta. Io personalmente non so se l'abolizione della traccia di storia, appunto, nella prima prova scritta sia da considerarsi la prova provata di una messa a bando della storia. Alcuni lo dicono, io non sono d'accordo. Ed è anche un peccato che la posizione di molti intellettuali e politici del campo progressista in questo paese si allineino alla percezione di un loop che riguarda la storia. La si studia poco, interessa pochissimi, dunque è possibile eliminarla dalla maturità senza che nessuno se ne accorga. Per me la questione sta davvero ad un altro livello. Se vogliamo restare al tema della traccia che oggi catalizza l'attenzione, la domanda vera è: chi scriveva le tracce di storia per la prima prova scritta aveva idea di che cosa si studia a scuola nelle 2 ore disciplinari, 3 solo in certi licei e 1 addirittura per le attuali sperimentazioni nei professionali? Ha idea di quali siano le competenze degli studenti di 18 e di 19 anni? È questa la domanda. Come si può pensare che un ragazzo di quell'età, che ha studiato sui manuali attualmente in commercio e che ha a che fare con docenti che, anche quando sono bravissimi e coscienziosi, difficilmente sono laureati in storia, pur insegnandola, possano produrre, ad esempio, una riflessione sui BRICS, ed è la traccia del 2013. Naturalmente l'esempio dei BRICS è emblematico, ma stabilisce l'idea precisa di una sorta di cortocircuito fra percezioni, aspettative e realtà. Su questo secondo me bisognerebbe agire, il che non vuol dire mettere da parte l'idea che al MIUR piacerebbe forse davvero minimizzare l'importanza della storia. Ma questo non avviene da oggi. In questo paese la conoscenza della storia è sempre stata minimizzata. Basta pensare a come è stata insegnata per decenni, a come è stata percepita dagli studenti, noiosa, inutile, senza corrispondenze con la loro realtà, esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere. Ma anche per chi fa questo mestiere, non intimorito dalle innovazioni in corso, il punto cruciale sono gli studenti. Gli studenti sono il problema, l'idea di storia che si vuole trasmettere loro, il confronto con le loro attese, le loro necessità. Un grande storico, il più grande secondo me, Marc Bloch, diceva che la storia è una disciplina che studia il passato a partire dalle domande del presente. Sono le domande di questo presente a non essere più chiare. Ecco Agnese, io ti interrompo perché tu in questa risposta davvero molto completa hai parlato di manuali. Abbiamo detto che tu sei la direttrice dell'area didattica dell'Istituto Parri e sappiamo che l'Istituto Parri si occupa di storia e di memoria del Novecento. Ecco, io ti chiedo, proprio a questo proposito, come viene trattata la storia del Novecento a scuola e ora quali argomenti vengono più, diciamo, prediletti, ecco, oltre chiaramente alla Seconda Guerra Mondiale che spero che tutti facciano, e quali vengono lasciati indietro, vengono così dimenticati in qualche modo? L'Istituto Parri, come giustamente ricordavi, si occupa di storia, memoria e educazione alla cittadinanza, attiva e globale, in quest'ordine direi. Lo fa nello scenario che abbiamo appena descritto, dunque non senza qualche difficoltà. Una difficoltà che è dovuta anche a una congiuntura politica a livello locale e nazionale, in cui non si sa bene quale possa essere il ruolo degli istituti storici della Resistenza. Ma al di là di questo, la tua domanda verte sui manuali, sui temi più ricorrenti e quelli meno ricorrenti. Il Novecento è sicuramente percepito come un secolo complesso da insegnare. Per alcuni docenti, alcune sue parti, soprattutto dagli anni Ottanta, non possono nemmeno essere considerate davvero storia, ma attualità. È un ragionamento sensato, tutto sommato, eppure controproducente, perché la storia del presente è quella di cui i ragazzi hanno davvero più bisogno. Mi viene da dire che non ha molta importanza che una storia non possa ancora essere prodotta con tutti i crismi della ricerca storica. Un bravo storico, un bravo professore di storia sa colmare questa tipologia di lacuna. Ci può sicuramente lavorare. E se è un insegnante bravo, è necessario potersi fidare di lui. Quindi, fino alla fine, ricapitolando, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il Novecento lo studiano davvero tutti. Su questo possiamo essere d'accordo. Statisticamente è così. Il buco nero, in realtà, per la maggioranza è il periodo successivo. Se si studia la parte successiva, si privilegia il filone della Guerra Fredda, la stagione dei terrorismi. Insomma, mi viene da dire che lo scenario della guerra sia sempre costante, no? Sempre di tensione e sempre di guerra si tratta. Il dopoguerra italiano, la società dei consumi, l'Unione Europea si studiano raramente e spesso per spot. Non c'è quasi mai narrazione, e non ho detto storytelling, ma narrazione storica. Potrei fare un esempio pratico e che viene dalla mia esperienza. Io sono una storica dell'alimentazione e mi occupo anche di consumi. Quando arrivai in istituto proposi nella nostra offerta formativa, che iniziava proprio in quel momento ad aprirsi al Novecento nel suo complesso, un'attività su Carosello, che in qualche modo aiuta anche a comprendere una fase importante della crescita del nostro paese, tra l'altro un programma che dura 20 anni, dal 57 al 77. La maggior parte degli insegnanti che telefonavano per informazioni in quell'anno scolastico erano entusiasti per quella novità, mi dicevano che dovevano assolutamente prenotarlo, ma nessuno lo fece. Mi sono domandata cosa non avesse funzionato. La risposta che mi sono data è che, al di là dell'entusiasmo e del sincero apprezzamento, pochi avrebbero potuto gestire un approfondimento del genere. Come lo introduci? Cosa te ne fai quando ritorni al manuale o alle lezioni frontali? Certo, ti apre una finestra sulla nostra idea di mondo, ma è una finestra che è come affacciata su un luogo senza contesto, senza coordinate. Forse questo dipende dal fatto che, soprattutto per il secondo Novecento, non esiste un canone consolidato di argomenti storiografici, proprio dal punto di vista storiografico, e il manuale diventa una specie di enorme menù, di portate tutte appetibili, ma che sono davvero troppe per poter scegliere. Parlavi anche di memoria. Per quanto riguarda la memoria, la questione diventa un po' più facile da analizzare. La memoria fagocita la storia nel periodo che va dal 15 gennaio alla fine di febbraio. È un rito, un momento simbolico importante. La giornata della memoria e il giorno del ricordo catalizzano l'attenzione. Ogni insegnante sente di doversene occupare, c'è addirittura una legge che lo obbliga a farlo. Non mi dilungo molto su questo argomento, posso solo dire che sono d'accordo con Elena Lowenthal quando, da ebrea, scrive contro il giorno della memoria, mettendo il dito dentro una questione su cui, dopo di lei, almeno discutere non è più tabù. Credo che, sostanzialmente, fare memoria sia più semplice, mettiamolo fra virgolette questo termine semplice, ma che fare storia, ed è per questo che se ne fa di più. Non per tutti è così, certo, ci sono istituzioni e associazioni che fanno memoria in maniera esemplare, ma a scuola qualunque sguardo sul passato finisce per diventare memoria, si fa memoria con un testimone, con un film, con la partecipazione a una cerimonia pubblica in cui emozionarsi, piangere, indignarsi. Non che le emozioni non siano importanti nella vita delle persone, ma a scuola bisognerebbe saperle gestire per riportarle a una sintesi che riconduca a livello cognitivo il dato emozionale. Se questo non avviene, stiamo solo impartendo lezioni su quando piangere e commuoverci un po' a comando. Io ho sempre sostenuto che non disdegno il rito, ma non posso accettare che venga celebrato senza contesto, senza consapevolezza della distanza critica e di quella storica. Ecco Agnese, sì, in effetti tu ti rimballo una questione importantissima, quella tra storia e memoria, e che davvero dovrebbe essere l'argomento di una o più puntate. Ecco, io su questo mi stoppo e ringrazio davvero Agnese Portincasa per questa bellissima chiacchierata, chissà poi ci rincontreremo e intanto vi saluto e ci vediamo sabato prossimo con Vallun.